Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Se io vi dico calcio totale, nelle vostre menti si materializza la formazione dell'Olanda del 74, quella che veniva definita l'arancia meccanica, una squadra capace di mostrare al mondo un calcio mai visto, tecnica, velocità, capacità di sfruttare gli spazi, giocatori come Cruyff, Neeskens, Rep, Krul, il leggendario portiere Youngblood con la sua maglia numero 8 e tanti altri a orchestrare le gesta di quei giocatori. C'era il protagonista della storia che vi raccontiamo oggi. Parliamo di Rinus Michels, l'uomo che inventò il calcio totale, The General. Siamo nel 1928, 9 febbraio, in Olanda nasce Marinus Jacobus Hendrikus Michels, per tutti Rinus. La sua è una famiglia modesta, il padre Piet gli trasmette un'unica fede, quella per i colori biancorossi dell'Ajax. E per il suo 8° compleanno Rinus riceve in regalo maglia e calzoncini della sua squadra del cuore. Insomma, l'Ajax diventa un punto di riferimento per la sua esistenza e lo sarà per moltissimi anni, lungo quasi tutta la sua carriera. Questo è l'inno dell'Ajax, viene subito voglia di versarsi una pinta di birra. L'idolo di Rinus Michels è l'attaccante Piet van Rijn, lui lo va a vedere spesso giocare allo stadio assieme al padre, e lui ha 12 anni nel 1940 quando realizza il suo grande sogno, entrare nelle giovanili dell'Ajax. Però sono tempi duri, non solo per la squadra ma per tutta l'Olanda e in realtà per il mondo intero, perché è arrivata, è esplosa la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1940 la Seconda Guerra Mondiale è scoppiata da poco, le truppe del Terzo Reich invadono i Paesi Bassi, anche l'Ajax deve pagare un conto molto salato. Eh sì, perché il club è storicamente legato alla comunità ebraica di Amsterdam. Con l'arrivo dei tedeschi tutti i dirigenti ebrei vengono rimossi dalle loro cariche, c'è un effetto fortissimo sulla squadra che retrocede in seconda categoria. Rinus Michels sta giocando come attaccante in quell'Ajax. Tra il 46 e il 58 gioca 250 partite con 122 reti e veste anche la maglia della sua nazionale, con la quale però ha un rapporto difficile perché gioca 5 partite con l'Olanda e le perde tutte. È un'esperienza deludente che lo fa riflettere sul tipo di gioco di quella nazionale. Lo racconta Mario Sconcerti nel suo libro Storia delle idee del calcio. Michels era un signore che si faceva tante domande, ma non riusciva a darsi una risposta a quella più importante. Perché l'Olanda della libertà, della tolleranza, della creatività continuava a giocare un calcio vecchio, inadatto a battere squadre come la Svizzera e il Belgio? Proprio il Belgio, così vicino e così lontano dall'Olanda, aveva un giocatore formidabile, Van Himst, mentre gli olandesi niente da secoli. Il Belgio si stava inoltre affidando alla tecnica del fuorigioco, mentre l'Olanda giocava un calcio sempre molto normale, praticamente banale. Rinus si ritira a 30 anni dal calcio giocato per dei problemi alla schiena, però è giovane. Cambia vita, inizialmente fa l'insegnante di ginnastica in una scuola per ragazzini audiolesi, e fa questo lavoro fino al 65, poi un giorno riceve la classica telefonata che ti cambia la vita, perché dall'altra parte del ricevitore c'è la dirigenza dell'Ajax che gli propone di diventare allenatore della prima squadra. E naturalmente lui accetta, anche se avrebbe molti dubbi perché non ha nessuna esperienza come allenatore di una squadra professionistica, però fa questo salto e è un momento di svolta in quel periodo per tutto il movimento calcistico internazionale, anche se nessuno lo ha ancora capito. E Michels comincia a plasmare i suoi giocatori, impartendo intanto una rigida disciplina, e da qui il suo soprannome The General, il generale. Lui si ispira a Jack Reynolds, che era un allenatore inglese che per 30 anni all'inizio del Novecento aveva guidato l'Ajax come una nave da guerra dell'invincibile armada. Il calcio di Reynolds è così, è piratesco, è disciplina profonda, continua presenza, grandi motivazioni, nessuna pietà per gli avversari, e questo piace piace molto a Reinus Michels, che ripropone questa filosofia nella sua squadra e va oltre. È alla ricerca della formula sacra, del santo graal del calcio, la formula della vittoria sicura. Non gli interessa lo schema perfetto, perché non esiste uno schema perfetto, perché una volta scoperto diventa replicabile dagli avversari e si prendono delle contromisure. Non cerca neanche la squadra perfetta, lui cerca la squadra impossibile, quella capace di reggere, di mettere in atto degli schemi che nessuno aveva visto su un campo di calcio. E nel 1965-66 c'è il suo debutto, prima panchina per Reinus Michels, che appena entrato nello spogliatoio detta subito due regole. La prima è: dove serve fermezza ci vuole rigore. La seconda: dove serve fantasia deve esserci libertà di invenzione. Sono due concetti che dicono tutto il contrario di tutto in apparenza, ma quello che lui propone è un calcio fondato su un eccesso ragionato. Vuole dimostrare che mescolando disciplina e libertà si possono ottenere grandi risultati. È solo l'inizio della sua rivoluzione. Il falco e il gabbiano. La filosofia di gioco di Michels si dimostra vincente da subito. Alla fine del campionato 65-66, a 6 anni di distanza dall'ultimo titolo, l'Ajax torna a essere campione d'Olanda. E questa è solo la prima di una serie di trionfi targati Michels, e il titolo arriva in altre 3 occasioni nelle 5 stagioni successive. Il Feyenoord, l'eterno, lo storico rivale dell'Ajax, vince nel 68-69 e nel 70-71, le altre 3 volte vince lui con il suo Ajax. E oltre a portare vittorie, lui avvia una filosofia nuova che diventa il suo marchio di fabbrica, è la crescita dei talenti del vivaio. È anche un modo di fare calcio unico, impossibile da replicare. Questo rimane ancora oggi, quando l'Ajax di oggi, che gioca col 4-3-3, anche nelle giovanili, perfino i pulcini a 7 anni giocano già col 4-3-3, cioè sono già all'altezza, almeno mentalmente, degli schemi della prima squadra. E tutto questo viene dall'operato di Michels, e peraltro operato che lui ripeterà anni dopo in una piazza di primo livello, la piazza del Barcellona, perché Michels sarà il primo olandese sulla panchina del club catalano. Som ja les acaballes del partit que està guanyant el Barça 0-5 en la victòria més àmplia de la seva història al Santiago Bernabéu. En la 22a jornada del campionat de Lliga, temporada 73-74, el Barça marxa directe cap al títol. Avui el Barça ha tornat a fer una demostració de futbol. Demostració de futbol, sí. 73-74 il Barcellona passeggia sul Real Madrid, vince 5-0 al Santiago Bernabéu, umilia le merengue. È una vittoria sportiva ma anche politica, stiamo parlando di una comunità, quella catalana, che è al suo epicentro nella Madrid di Francisco Franco. Ma torniamo a Michels, torniamo ai tempi dell'Ajax. Per la prima volta in Europa si parla di calcio totale. È una formula che sembrerebbe impossibile da realizzare, perché richiede troppi elementi che non dipendono dall'uomo. Intanto bisogna avere dei calciatori formidabili, disponibili a farsi modellare fin da quando sono ragazzini per capire i movimenti, gli schemi del calcio totale. Ci sono pochi giocatori adatti a questo tipo di calcio, perché ci vuole una concentrazione da mantenere per tutto il corso della partita. Ci vogliono 3 doti fondamentali: la tecnica dei sudamericani, la corsa dei nord europei, l'intelligenza tattica degli italiani. Insomma, ogni giocatore deve sapere giocare benissimo la palla a grande velocità, capire nel minor tempo possibile dove mettere il pallone, e la dote fondamentale che un calciatore deve possedere è la classe. Solo chi ha classe può avere e garantire un perfetto controllo di palla e correre velocemente con la palla al piede. Per Michels è importantissima anche la gestione degli spazi, cioè l'arte di sapersi adattare a ogni situazione. È una dimostrazione di intelligenza calcistica che forse solo gli italiani fino a quel momento avevano dimostrato di avere. L'adattamento all'avversario deve essere ragionato, mai subito. Bisogna costringere gli altri al tuo modo di essere. Non è un caso che le squadre di Michels esercitino un grandissimo pressing sugli avversari, costringendoli all'errore, riconquistando la palla, tutte cose che noi oggi vediamo abitualmente. Insomma, le squadre che stanno bene in salute vanno a pressare e cercano di mettere ansia all'avversario, ma allora non era così. Allora tu giocavi il pallone e gli altri ti aspettavano, magari retrocedevano verso la loro area. E poi i giocatori devono conoscere i movimenti dei compagni, devono sapersi scambiare di ruolo con grande velocità. Il calcio totale non prevede la comunicazione verbale perché è troppo lenta rispetto al pensiero. Qui si parla coi movimenti per mettere in atto. Il calcio totale serve una componente psicologica fondamentale. Tutti i giocatori devono avere una mentalità positiva, non è un vezzo, è una necessità. Questa mentalità è così importante che ha un suo nome, si chiama Amsterdam Bluff, cioè i giocatori devono entrare in campo sempre sicuri di vincere, gli avversari devono sentire questa energia, devono percepire questa superiorità già dal tunnel degli spogliatoi. Naturalmente non tutto funziona sempre, soprattutto all'inizio ci vuole tempo, e infatti la prima finale di Coppa dei Campioni giocata con l'Ajax non finisce bene per loro. Siamo a Madrid nel 1969 e in campo l'Ajax gioca contro il ben più pragmatico Milan di Nereo Rocco. Da una parte c'è Cruyff, ma dall'altra c'è Gianni Rivera, e poi c'è Pierino Prati. Insomma, una gara senza storia, finisce 4-1, tre gol appunto di Prati, un rete di Angelo Sormani, e per la seconda volta nella sua storia peraltro il Milan porta a casa la Coppa dei Campioni, la coppa con le orecchie. Mentre vediamo un contropiede del Milan, è Sormani a effettuarlo, cerca la luce, tira di sinistro, rete, 3-1. Ha segnato Sormani, siamo al 21esimo della ripresa, Sormani ha portato a 3 le reti per il Milan. Rivera, ecco lo scambio bello, forse ci siamo, no, troppo tardi, pallone, rete di Pierino Prati, ancora, 4-1. Ma i tempi sono quasi maturi. Nel 70 la Coppa la porta a casa il Feyenoord, quindi la portano a casa i cugini odiati di Rotterdam, e poi nel 71 l'Ajax è di nuovo in finale di Coppa dei Campioni, si gioca contro i greci del Panathinaikos, allenati dalla leggenda del calcio ungherese del Real Madrid Ferenc Puskas. Si gioca a Wembley e qui Michels schiera una formazione che gli appassionati di calcio di quel tempo ricordano. Neskens è basso a destra, Cruyff e Müren sono mezzali a centrocampo, in attacco ci sarebbe un tridente con Swart, Kaiser a sinistra e Van Dijk centrale. In realtà io vi sto dicendo dei ruoli, poi non sono applicati sul campo in maniera molto ortodossa, perché ti può capitare di vedere una delle punte ripiegare nella sua metà campo e viceversa un difensore arrivare in area. Comunque proprio il centravanti, il falso 9 Van Dijk, che segna dopo 5 minuti di gioco. L'Ajax è superiore rispetto al Panathinaikos, però spreca molte occasioni da gol, e questa è una caratteristica negativa della squadra di Michels, non solo perché sono belle e si specchiano un po' si autocompiacciono, ma soprattutto perché per giocare come vuole Michels bisogna correre tanto, e l'acido lattico ti fa sbagliare molti gol. Così l'Ajax rimane 1-0 per 80 minuti e in qualche occasione rischia anche di subire gol del pareggio, e poi al minuto 85 però Hahn, vedete, un difensore servito da Cruyff, è dentro all'area avversaria, destro sporco e gol. L'arbitro Taylor fischia alla fine, l'Ajax per la prima volta nella sua storia è campione d'Europa. Il falco e il gabbiano. stiamo raccontando la storia di uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, sicuramente uno dei grandi innovatori, Rinus Michels, l'uomo che ha inventato il calcio totale, quel modo di giocare è entrato nel mito grazie all'Ajax degli anni 70 e alla nazionale olandese del 74, nazionale che arriverà in finale del mondiale contro la Germania Ovest. La storia di Michels è quella di un allenatore molto giovane che a 30 anni ha capito che non diventerà un fuoriclasse, che bisogna cambiare, inventarsi, e fa l'allenatore, inizia prima degli altri e crea una generazione di fenomeni. Tra questi naturalmente spicca Johan Cruyff, il più grande calciatore della storia olandese, uno dei più grandi del mondo. Michels, con questo calcio che prevede pressing, movimenti e scambi di ruolo tra i giocatori, porta l'Ajax alla vittoria della Coppa dei Campioni del 71. E al termine di quella stessa stagione Michels lascia l'Ajax e va a Barcellona a affrontare una sfida difficile, perché in quel periodo in Spagna sono le squadre di Madrid che si aggiudicano la maggior parte dei titoli. Poi nel 73, mentre il Franco sta perdendo la salute e il potere, la federazione spagnola riapre le porte ai giocatori stranieri. Michels approda a Barcellona e si porta dietro uno dei suoi fedelissimi, anzi il migliore, Johan Cruyff. E così nel 73-74 i Blaugrana vincono il campionato e come premio per questa impresa la federazione olandese, che deve preparare i mondiali del 74, sceglie naturalmente lui. Così Michels va in panchina a allenare l'Olanda, che sta puntando a una storica vittoria. È una nazionale della quale si parla tantissimo in quell'anno. Intanto ci sono giocatori formidabili, c'è un gioco completamente diverso, e poi una volta ottenuta la disciplina dai suoi campioni, Michels poi allarga le maglie, e tanto è vero che l'Olanda del 74 rimane famosa anche perché è la prima squadra che si porta in ritiro le mogli e le fidanzate. E l'Olanda parte alla grande, supera i due gironi eliminatori, batte anche il Brasile campione uscente e arrivano in finale contro i padroni di casa della Germania Ovest. Siamo all'Olympiastadion di Monaco di Baviera. A distanza di 30 anni dall'invasione dei Paesi Bassi, l'Olanda potrebbe prendere la sua rivincita su un campo di calcio. Per farlo può contare sul miglior gioco possibile, su una componente psicologica notevole, l'attitudine speciale, l'Amsterdam Bluff. Lo spiega addirittura Winger Bernd Ulzenbein, che era un nazionale tedesco in campo contro l'Olanda in quella finale del 74. Eravamo nel tunnel che ci portava in campo. Mi guardavo le scarpette e cercavo concentrazione come sempre. Mi venne voglia di alzare lo sguardo e guardai i miei avversari. Fu terribile. Erano sicuri, spavaldi. Mi fecero sentire infinitamente piccolo. Ci guardavano ed era come se ci stessero chiedendo: «Ehi ragazzi, quanti gol volete prendere oggi?» Il primo minuto della partita è una dimostrazione di forza dell'Olanda, che in Germania non dimenticheranno mai, perché dal calcio d'inizio i tedeschi la palla non la toccano, fino a che Cruyff entra in area, supera due avversari, si trova, sta per tirare, arriva Bertie Vogts che lo abbatte prima che lui possa calciare in porta. Ecco il racconto dell'azione nella telecronaca di Nando Martellini. Cruyff atterrato ed è calcio di rigore al primo minuto. L'Olanda in vantaggio, ha segnato Neskens, 1-0 al secondo minuto della finale di Monaco. È il primo calcio di rigore che viene concesso in una finale mondiale. Dopo due minuti l'Olanda è già in vantaggio, botta centrale di Neskens, 1-0. La partita sembrerebbe in discesa, ma lo sappiamo, la Germania Ovest è dura a morire. A metà del primo tempo arriva un altro rigore, un pochino più benevolo in questo caso, ed è Breitner che pareggia 1-1. E poi Gerd Müller, che è uno che in area non perdonava, sfodera un destro a incrociare e infila il portiere Jongbloed. Si torna negli spogliatoi con i tedeschi avanti 2-1. L'Olanda è vittima forse della sua bellezza, produce occasioni da rete in quantità, ma quel gol del pareggio non riesce a farlo. E come qualche anno dopo disse Gary Lineker, il gioco del calcio è un gioco che si gioca 11 contro 11 e poi alla fine vincono i tedeschi. E infatti anche in quel caso è Franz Beckenbauer a alzare la coppa al cielo. Ed ecco il fischio finale. finale del signor Taylor, la Germania è campione del mondo, battendo l'Olanda in una bellissima ed anche drammatica finale. La Germania ha conquistato il 10° titolo di campione del mondo. Succede quindi al Brasile, è stata una vittoria conquistata bene nel primo tempo, difesa poi con affanno dal ritorno degli olandesi nel finale. Ed ecco la coppa del mondo nelle mani di Beckenbauer. Michels lascia la guida della nazionale e ricomincia da capo, di nuovo dall'Ajax, poi il Barcellona, poi alla fine degli anni 70 va in America a allenare il Los Angeles Aztecs e si porta dietro Johan Cruyff. Dopo 4 stagioni al Colonia in Germania, Michels torna sulla panchina dell'Olanda. Nel frattempo siamo nell'86, stanno per arrivare gli europei dell'88 che si giocano di nuovo in Germania Ovest. Sono passati 14 anni da quella finale dei mondiali in Germania, ne sono passati 10 da un'altra finale persa, quella dell'Olanda contro l'Argentina, e il calcio è cambiato, sono cambiati anche i giocatori naturalmente, e però tra i convocati di quella nazionale ci sono Ronald Koeman, Ruud Gullit, Kieft, Frank Rijkaard, Arnold Muren e un gioiellino del calcio olandese che farà molta strada, si chiama Marco van Basten. L'Olanda questa volta non parte benissimo e spesso questo è un buon segno. Perdono 1-0 con l'Unione Sovietica, battono 3-1 l'Inghilterra con 3 gol di Van Basten, battono a fatica l'Irlanda con un gol quasi allo scadere di Wim Kieft. E in semifinale si ritrova la Germania Ovest e il risultato è lo stesso del 74, 2-1, ma questa volta sono gli olandesi a vincere e si va in finale contro l'Unione Sovietica. E la cosa curiosa è che io quella finale l'ho vista in televisione a Mosca e insieme ai russi, che insomma non c'erano rimasti benissimo. E no, perché l'Olanda vincerà 2-0, reti di Gullit e di Van Basten, che segna uno dei gol più difficili della storia del calcio, un colpo al volo dall'angolo destro dell'area di rigore. L'Olanda va sul tetto d'Europa, per ora è l'unico successo internazionale nella storia del calcio olandese e il condottiero di questa impresa è lui, il Rinus Michels, l'uomo che ha portato l'Olanda a diventare una potenza del calcio mondiale. È finita secondo pronostico, ha vinto l'Olanda. Ma non è stato facile come la partita di ieri può far sembrare. Innanzitutto i tulipani hanno stentato all'inizio quando le geometrie sovietiche erano ancora lucide. Il gol di Gullit è venuto tutto in fase aerea, dove i sovietici hanno mostrato una carenza disarmante. Noi abbiamo giocato molto bene, come i russi adesso. Loro hanno giocato molto bene e noi abbiamo segnato 2 gol. E poi zona contro zona, ma con una differenza, quella che gli olandesi hanno oggi il centroavanti più forte d'Europa. Il gol di Marco van Basten è di quelli che non possono essere catalogati in nessuno schema, vanno solo incorniciati nella storia del calcio. Ed allora Olanda, alla fine con merito, se nelle qualificazioni non aveva fatto vedere proprio nulla di buono, nelle 2 ultime partite ha davvero cambiato marcia. Per parlare di calcio, di quel calcio, essendo qua a Radio 24, bisogna andare in alto, alzare l'asticella, e quindi abbiamo Carlo Genta, che voi ben conoscete perché ha appena finito di condurre un attimo prima di noi. Carlo, dunque, quanto l'ha cambiato il calcio, Michels? Completamente, lo ha cambiato completamente, è stato un rivoluzionario vero, perché prima di lui quello che ha fatto vedere quell'Ajax non l'aveva mai visto nessuno, cioè una squadra in cui tu non sapevi quali erano gli attaccanti, quali i difensori. Era una grande generazione di giocatori, perché possiamo poi raccontare tutte le favole che vogliamo, ma senza i grandi giocatori non vinci quello che ha vinto Michels con l'Ajax, 3 coppe dei campioni consecutivi. Eh sì, poi mi ricordo, perché erano anni, chiaramente ai mondiali i numeri erano da 1 a 22 e i telecronisti però erano abituati a dire portiere, terzino destro, terzino sinistro, mediano di spinta, come mediano diceva la Panini, stopper libero. Erano gli anni in cui il 2 marcava l'11, il 3 marcava il 7, il 5 il 9. E tu vedevi questi giocatori e dopo un po' i telecronisti erano imbarazzati, non capivi chi era il centrocampista, chi veniva da dietro, chi tornava. Erano 11 giocatori, compreso il portiere che sapeva giocare, che sapeva giocare con i piedi e che si muovevano all'unisono, andavano, cioè potevano interpretare qualunque ruolo. Quella fu la grande rivoluzione di Mikas, e poi come in tutte le storie legate al calcio, alla musica, succede qualcosa che ha a che fare con le stelle, no? Perché Mikkels, quell'Olanda che era praticamente l'Ajax, uno squadrone, non riuscì a conquistare un mondiale quando era di fatto la squadra più forte per mondo. Due edizioni, perse due volte con la squadra di casa. Sì, ma la seconda nemmeno la conterei, quella dell'Argentina, fu un mondiale strano, poi non c'era Cruyff che boicottò praticamente quel mondiale e quindi era già al tramonto, ma Germania 74 era chiaramente la squadra più forte del mondo. E se le stelle dannate del calcio che guardano tutti di sbieco avessero voluto, quell'Olanda sarebbe diventata campione del mondo. Ma era forse, loro correvano tanto, correvano forse sbagliavano qualche gol di troppo, che dici? Sbagliavano i gol, sai, anche perché non sapevi da dove potevano arrivare i gol, cioè non avevano il Gerd Müller che decise quella finale, non avevano il Van Basten, non avevano Cruyff che era un genio, e che era il giocatore perfetto, simbolo del michelismo, se mi permette. Sarebbe bastato un Inzaghi dentro due palle. Un Inzaghi, però Inzaghi non poteva giocare in quella squadra perché non poteva partecipare a questo coro, a questo incredibile coro che il mondo non aveva mai visto. Uno dei grandi cambiamenti, credo, correggimi se sbaglio, che da allora piano piano i difensori hanno cominciato a giocare bene a calcio. Ma quando succede una rivoluzione poi gli emuli sono tanti, e però rimangono tutti emuli. L'originale è questo generale olandese che lì le stelle gli hanno voluto bene, appunto, ha poi vinto comunque un titolo con l'Olanda, perché sennò sarebbe stata un'ingiustizia imperdonabile perfino per gli almanacchi. Ha poi vinto un titolo con quel gol meraviglioso di Van Basten, con quel gol che è rimasto nella storia del calcio. E perdonami, Van Basten è stato in qualche modo, o poteva diventare, perché ha smesso a 29 anni quando ancora era giovanissimo, poteva diventare il nuovo Cruyff, perché Aveva classe io vendere, e poi poteva essere, con l'evoluzione della sua carriera, il giocatore che andava a giocare dietro le punte proprio alla Cruyff. Sì, potevamo vederlo. Grandissimo, grandissimo Van Basten. Grazie mille, Carlo. Grazie a te, Enrico. Grazie dell'invito. Come abbiamo sentito anche da Carlo Genta, la figura di Mikkels è questo, è avere rivoluzionato l'approccio dei calciatori alla partita e avere ridotto la specializzazione. Cioè oggi i difensori sanno attaccare e gli attaccanti vanno a difendere. Negli ultimi anni della sua vita Rinus Mikkels si gode il calcio dagli spalti degli stadi di tutto il mondo fino a quando la sua parabola terrena si chiude nel 2005 a 77 anni. Ci sono persone che hanno dato dei colpi d'ala significativi, cioè hanno cambiato le regole del gioco al quale stavano giocando, grandi artisti ma anche grandi sportivi. Ecco, Rinus Mikkels è stato questo, ha creato un approccio diverso alle partite di calcio. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite a trovarmi nei miei, nei nostri social, Facebook, Instagram, Twitter, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.